La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. L'articolo 52 riguarda la difesa della patria, che viene sancita come sacro dovere del cittadino. Anche qui, dietro alla retorica, si nasconde un'esigenza tutta post-bellica di tutelare la nazione e quindi di difenderla. Ma l'articolo 52, dal punto di vista dei cittadini, è importante soprattutto perché poneva l'obbligo del servizio militare. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Sappiamo bene che il servizio militare non è più obbligatorio dal 2000, perché una legge del 2000 ha trasformato l'attività militare in un'attività professionale. Tuttavia è interessante notare come il testo della Costituzione ancora preveda il servizio militare obbligatorio, perché basta una legge per sospendere un obbligo costituzionale, in quanto la Costituzione lo pone come obbligo, ma lo pone come obbligo nei modi previsti dalla legge. Per cui domani potrà benissimo cambiare la legge e rendere nuovamente obbligatorio il servizio militare. Accanto alla problematica del servizio militare c'è poi tutta la problematica dell'obiezione di coscienza, cioè della possibilità di rifiutare il servizio militare per motivi personali e motivi di opinione. La legislazione interviene sull'obiezione di coscienza soltanto negli anni 70, è una legge del 1972 a prevedere l'obiezione di coscienza al servizio militare, ma ci sono volute decine di anni affinché l'obiezione di coscienza riuscisse a consolidarsi come vero e proprio diritto del cittadino. È un punto importante perché indica la maturazione del sistema giuridico, che accanto all'obbligo prevede ovviamente le facoltà e il rispetto di tutte le opinioni. Per cui è vero che il servizio militare è obbligatorio, ma è vero anche che se per motivi di coscienza non voglio, non me la sento di prestare un servizio armato, lo Stato mi deve consentire di prestare un servizio non armato. Questo è un tipico esempio dell'arricchimento democratico nella vita dei cittadini.